parli de ciò che vuol, che a me non cale o dir ciò che favella. Io qui m'assedo, non per cercar riposo, ma sol per favellar col mio dolore. Pena, smaia, padina, o traditore! Qual dal colle vicin voce rimbomba, il traditor mi chiama. Ciò che non sento, ma crudel gelosia.